se oggi ancora la tua grazia scende, certo domani il tuo sole splende. Non ha più potere, perché la croce è la tua vittoria.